Roma Trastevere, 13 febbraio 1974. Cara Eleuterio, dallo stesso balcone dal quale mia sorellina e io guardavamo il cielo, sognavamo sogni rosa, oggi guardando il cielo sospiriamo deluse. Nella terrazza di fronte un bambino gioca con l'aquilone. Io penso che l'aquilone è un neo colorato mosso dal vento sul viso limpido del cielo. Penso anche che se il cretinismo fosse un partito, tu ne saresti il leader. Incrementare il turismo è essenziale, Eleuterio, sempre tua. Roma Parioli, 14 febbraio 1974. Implacabile sempre mia. Se il balcone dal quale tua sorellina e te, sospirate deluse, fosse un balcone serio, dovrebbe crollare improvvisamente facendo sospirare di delusione il marciapiede sottostante al momento dell'impatto. Incrementare il turismo non mi riguarda e non lo voglio incrementare. Chiaro? Eleuterio. Ho scritto, sempre parlando di turismi e di monumenti, di a tua sorella che se ne torni a Napoli. Il Maschiangioino è lì che deve stare. Roma Trastevere, 15 febbraio 1974. Care Eleuterio, gatto, mia sorellina ha letto la tua lettera. Ha meditato a lungo, poi ha detto, di a quel, omissis, di tuo marito che io, omissis, e che lui oltre a essere un, omissis, e anche, omissis, omissis, omissis, era ammollito. Poi è scesa a comprare le vongole per gli spaghetti. E io penso che la vongola verace è un mollusco automobilista che sorpassando la tellina fa le solite corna. Penso anche che incrementeremo il turismo comunque, perché sì, sempre tua. Roma Parioli, 16 febbraio 1974. Incredibile sempre mia. La normalità che regna in questa casa da che non ci sei tu incomincia a pesarmi. La tua follia fisica e mentale mi manca. Mi sei indispensabile. Se non guardo prima te, non riesco più a invidiare tutti i mariti più infelici di me. Torna. Qualcuno deve avere sostituito i pesci rossi nell'acquario. Sono di un giallo acceso con tenui sfumature arancione. Eleuterio. Ho scritto, la portinaia ha stabilito che i pesci sono sempre gli stessi, solo che non bisogna nutrirli con lo zafferano. Roma Parioli, 17 febbraio 1974. Caro Eleuterio, micione, la valigia che prima era in casa di mia sorellina, dove ero anch'io, adesso è di nuovo in questa casa, dove sono di nuovo anch'io. Ho messo un po' d'ordine, Eleuterio. Dentro il pianoforte a coda ho ritrovato la coperta imbottita che avevo cercato inutilmente nella cassapanca, dalla quale ho recuperato una scarpa, due piatti e un tegamino per uova. E io penso che la cassapanca è solo un armadio ad un'anta che, stanco di stare in piedi, si è sdraiato. Penso anche alla nostra ultima lite. Ricordo tutto perfettamente. Sei entrata in casa urlando come una belva. Ma si fa sapere perché la porta del mio studio è chiusa a chiave? Silenzio! La porta è chiusa a chiave perché c'è dentro nostra cugina Giovanna che si sta cambiando. A parte che nostra cugina Giovanna è tua cugina, ma perché diavolo si sta cambiando nel mio studio? Perché nella camera degli ospiti c'è zia Giuseppina che non può stare in camera nostra perché lì ci sono i De Rossi, moglie e marito. Io non ho capito, ma tutta questa gente che ci fa qua dentro? Eleuterio, abbiamo deciso di incrementare il turismo. Zia Giuseppina viene da Bari. La cugina Giovanna viene da Firenze e i De Rossi sono arrivati da Torino. Noi facciamo vedere loro la nostra città e loro ci raccontano Firenze, Bari e Torino. Turismo a fondo culturale e letterio. E io adesso tiro una bomba, così vedranno pure com'era la zona di Roma bombardata durante l'ultima guerra. Fuori, cacciali fuori. Io adesso esco, mi faccio un giro in macchina e tu sgomberi il campo, capito? La macchina l'ha presa mia sorellina per un rum by night in compagnia di zio Gustavo, che dormirà in soggiorno. Il sonno eterno, spero. Chi è zio Gustavo? È lo zio di un'amichetta di mia sorellina. E proprio qui dovevate organizzare l'albergo. Che ti dice il cervello? Mi correggo, che ti dice quella roba che hai al posto del cervello? Io, il turismo è utile, è redditizio. Mia cugina, che ha la cartoleria, ha portato in regalo alcune cartoline. Zia Giuseppina, un chilo di orecchiette da Bari. Zio Gustavo ha portato una bottiglia di amarena e il De Rossi un oboe e un violino, con i quali stasera suoneranno musica classica per noi. No, no, suoneranno la marcia funebre per loro. Sbatti tutti fuori, ti faccio vedere la più bella imitazione di Orazio Cocklis contro gli invasori. Zitto, non gridare, che svegli il bambino dei De Rossi. Ah, c'è anche il bambino. E allora ti faccio vedere pure l'imitazione di Erode. Fuori! Lutero, Lutero, posa. Che tu vuoi, Lutero, non fare schizzi. Ma mai stato così serio. Sgombro il terreno, spago tutto. Lutero, il turismo va incrementato. Gli scambi culturali. Oddio, aiuto. No, sì. no, aiuto. No, io me ne vado. Sì, ma prima cacciali via. Me ne vado. Sì, va bene. Va bene, li caccio, ma tu sei un bruto. Io torno dalla mia sorellina. Ricordo tutto perfettamente, Leuterio. Ma quando rientrerai, farò come se niente fosse accaduto. Ciao. Ciao, Leuterio. Sai che cosa ha pensato mia sorellina? Che bisognerebbe sburocratizzare la prassi per gli stanziamenti settimanali che servono.